Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Los Angeles, 22 febbraio 2009. Si affaccia un tiepido sole di primavera precoce tra le palme che seguono l'andamento delle spiagge nella città del cinema. Tutto è pronto per l'evento dell'anno, l'81esima cerimonia di consegna degli Oscar. Gli hotel sono pieni e se ce n'è qualcuno che ha avanzato una stanza, i prezzi sono inavvicinabili. Come sempre, è stata messa in moto una macchina organizzativa da Colossal. Niente, va lasciato al caso. Mentre la stampa internazionale attende armata di microfoni e macchine fotografiche ai bordi del più celebre red carpet, le star scendono una alla volta dalle loro auto, si mettono in posa e si lasciano volentieri immortalare. Se non altro perché pensano da mesi a cosa avrebbero indossato e come si sarebbero pettinati, alle battute che avrebbero riservato ai giornalisti. Frida Pinto, bellissima ed emozionata, sfila avvolta nel suo abito blu affiancata da Dev Patel, con il quale ha cominciato a uscire. Entrambi di origine indiana sono i protagonisti di The Millionaire, che dopo il trionfo ai Golden Globe è candidato a ben 10 nomination. Jamal deve rispondere alla domanda finale per vincere 20 milioni. Come ha fatto ad arrivare fino a qui? La trama di The Millionaire è tanto semplice quanto raffinata. Nello studio televisivo della versione indiana del format internazionale Chi vuole essere milionario, il giovane Jamal Malik, che viene dagli slum più poveri di Mumbai, si prepara a rispondere all'ultima domanda che potrebbe farlo diventare ricco. Mentre ripercorre una per una le domande, riaffiora il suo passato, una straordinaria avventura di vita vissuta per le strade, con il cuore alla ragazza che ama e che ha perso. Un'esplosione di energia, l'ha definito la rivista Variety. Per il Chicago Sunday Times è un racconto intenso e vibrante. Time consiglia di non perderlo e Rolling Stones non ha dubbi. È il più bel film dell'anno. Ma tutte queste critiche entusiaste non bastano certo a dare la sicurezza di vincere. Ecco perché quando Steven Spielberg apre la busta ed elenca i candidati alla statuetta per il miglior film, il produttore Christian Colson è agitatissimo. The nominees for Best Motion Picture are The Curious Case of Benjamin Button, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, and Sion Chafin, producers. Frost Nixon, Brian Grazer, Ron Howard, and Eric Fellner, producers. Milk, Dan Jinks, and Bruce Cohen, producers. The Reader, Anthony Minghella, Sidney Pollack, Donna Gialdi, and Redmond Morris, producers. Slumdog Millionaire, Christian Coulson, producer. And the Oscar goes to Slumdog Millionaire, Christian Coulson, producer. Coulson sale sul palco con il cast al gran completo. Frida Pinto, Dev Patel e un folto gruppo di bambini indiani che hanno recitato nel film. Ringrazia chi ha lavorato con lui dietro le quinte e abbraccia commosso il regista che non esita a definire un genio. Lui ricambia, alzando al cielo un'altra statuetta, quella che ha appena vinto come miglior regista. Se The Millionaire è un successo planetario, campione di incassi pluripremiato e amato dalla critica, il merito va soprattutto a chi l'ha diretto. Danny Boyle. Danny Boyle. Vorrei ringraziare tutti perché siete stati così generosi con me questa sera. Per me è un incredibile onore essere qui, ma l'orgoglio più grande è essere riuscito a fare un film come Millionaire. Come ho fatto ad arrivare fino a qui? Si chiede il protagonista di The Millionaire mentre si appresta a rispondere alla sua ultima domanda. È la stessa cosa che si chiede Danny Boyle quando davanti a una platea completamente in piedi che lo ricopre di applausi ritira il suo primo e finora unico premio Oscar. Redcliffe, periferia di Manchester, 1956. Quello che è stato uno dei centri più importanti della rivoluzione industriale inglese è ancora un cuore pulsante della produttività, tra alti e bassi dovuti a periodi di crisi. I muri delle case sono ingrigiti dal fumo delle fabbriche e sono in molti gli operai arrivati fin qui dalla campagna in cerca, se non di fortuna, almeno di un lavoro per sopravvivere. Tra questi c'è la famiglia di Danny Boyle, che addirittura è venuta dalla poverissima Irlanda. La mamma è originaria di Galway. Papà è nato in Inghilterra, ma da una famiglia di emigranti. Dopo una vita passata a mangiare principalmente patate, il cibo di chi non può permettersi altro, sono molti gli irlandesi che hanno deciso di prendere la nave e valicare il confine. Spesso si sposano tra loro. È una pratica comune in tutte le comunità di emigranti, dall'Italy a New York alla Chinatown di Londra. Ma gli irlandesi che scelgono di trasferirsi in Inghilterra non sono uniti soltanto dalla nazionalità, ma anche dalla religione. La famiglia Boyle è cattolica praticante, fervente, si potrebbe dire. Prima di ogni pasto si ringrazia, si prega ogni giorno, alla domenica rigorosamente a messa, e tutti, anche i più piccoli, sono tenuti a conoscere a fondo la Bibbia e a seguirne con dedizione gli insegnamenti. Ho ricevuto un'educazione cattolica molto severa, senza via di scampo, oserei dire. Ho fatto il chierichetto per 8 anni. Passavo gran parte del mio tempo in chiesa. Speravano tutti che sarei diventato un prete, e a dirla tutta, questo è sempre stato il desiderio più grande di mia madre. Quando ancora è un ragazzino, per Danny andare in chiesa è quasi un gioco. Ci sono tutti i suoi amici e avere un ruolo all'interno della funzione religiosa, anche se si tratta soltanto di aiutare il prete con il rituale della comunione, lo fa sentire importante. Lo fa sentire diverso da tutti i suoi coetanei, perché è l'unico ad avere un vero incarico di responsabilità. Presto però questa diversità assume i connotati dell'emarginazione. A scuola lo prendono in giro, le ragazzine lo snobbano, si sprecano i commenti più o meno blasfemi sulla sua voglia di farsi prete. Lui per un po' difende le sue scelte, poi incomincia a rendersi conto che quella che ha sempre creduto essere una sua naturale inclinazione è in realtà una costrizione dei suoi genitori camuffata da buona abitudine. E così improvvisamente si ribella a tutto quello che è stato finora. In casa i litigi diventano all'ordine del giorno e sua madre, che piange perché capisce che suo figlio non seguirà più la strada prefissata fin dalla sua nascita, non riesce a farsene una ragione. Sapevo che stavo facendo soffrire mia madre, ma era l'unica possibilità che avevo per essere me stesso. Non erano stati i miei compagni a convincermi. Semplicemente crescendo mi ero reso conto che quello che gli altri volevano per me non era quello che volevo io. Danny Boyle ha 14 anni quando prende la decisione definitiva. Non frequenterà il seminario nei pressi di Wigan, per il quale è già stato selezionato. Il prete più vicino alla famiglia, padre Conway, che fa da confessore a tutti e lo segue da quando è nato, ha capito benissimo che non deve andarci. È lui a dare la notizia ai genitori dopo aver parlato con Danny. Fino a 14 anni, tutti, me incluso, sapevano che avrei fatto il prete. Stavo per trasferirmi vicino a Wigan, dove avrei studiato in seminario. Ma il prete, padre Conway, mi prese in disparte e mi disse che non avrei dovuto andarci. Non ho mai saputo se stava salvando me dal seminariato o il seminariato da me. Ma presto ho iniziato a occuparmi di teatro. Il rapporto di Boyle con la religione termina qui, quando decide di non entrare in seminario dando un dispiacere infinito ma necessario alla sua famiglia. Da questo momento, per tutta la sua vita, si professerà ateo, ma con attenzione alla spiritualità. Di inclinazione razionale e scettico per natura, ha un atteggiamento di superiorità nei confronti di tutto ciò che esce dai canoni scientifici. Si tratti di riti magici quanto di omeopatia. Si scoprirà attratto dal misticismo quando andrà in India per un anno a girare The Millionaire, stupendosi per primo della potenza di quell'antica cultura. Ha sempre pensato però che ci sia un legame profondo tra la religione e il cinema inteso come arte performativa. Credo che ci sia una connessione molto forte tra la recitazione e la religione. Ci sono molti registi che all'inizio pensavano di fare i preti: Martin Scorsese, John Wood, M. Night Shyamalan. C'è qualcosa di molto teatrale nella figura del sacerdote. È un po' lo stesso mestiere. Entrambi hanno uno sguardo su tutto e dicono alle persone cosa fare. Sono due le grandi passioni di Danny Boyle quando è un ragazzo e studia al Thornleigh College di Bolton: il calcio e il cinema. Alterna le partite e i film con la bulimia di chi vorrebbe riuscire a fare tutto, ma se il football lo pratica e lo segue, per il momento il cinema lo segue soltanto. Siamo all'inizio degli anni 70 e a Manchester arrivano tutte le pellicole che hanno avuto successo sia in Europa che in America. Stanno cominciando ad emergere i grandi attori destinati a diventare star. Boyle è rapito dalla loro bravura. Per esempio, guarda e riguarda Dustin Hoffman in Un uomo da marciapiede. Ehi, che ti prende? Mi sono bagnato. Che hai fatto? Mi sono bagnato i calzoni e pure il sedile. Ma che cavolo? È inutile che ti ci metti anche a piangere. Io vado in Florida, sono tutto un dolore. Mi fa male il sedere, la gamba, i polmoni, mi fa male la testa. E c'è volevo pure che mi pisciasse addosso. No, te lo mi buffo. E io non mi diverto per niente. Ti figuri? Te lo figuri se adesso l'autista si ferma perché c'è una perdita d'acqua? Sempre di più nella vita di Danny Boyle acquista senso la possibilità di dedicarsi al teatro. Per la verità, nei suoi sogni non c'è fare l'attore, ma la regia. Si diverte con le prime sperimentazioni al college ed è qui che si accorge di avere talento. Trovare soluzioni creative anche per i problemi più semplici è quello che gli riesce meglio, soprattutto quando si tratta di montare uno spettacolo su un palco piccolo, con pochissime luci a disposizione e una sola scaletta dalla quale devono uscire ed entrare tutti gli attori. Per lui, più che difficoltà, tutti questi limiti sono una sfida. Se comincio dalla situazione peggiore, si ripete spesso, senza dubbio la strada sarà in discesa. Di fare cinema almeno all'inizio neanche a parlarne. Si tratterebbe innanzitutto di trasferirsi, se non in America almeno a Londra, e Danny non ha certo i soldi per farlo. I suoi genitori non lo aiuterebbero, contrari come sono anche alla sua scelta di dedicarsi al teatro, che sopportano solo grazie alla promessa che questa passione non toglierà tempo allo studio. Il teatro inoltre è di gran lunga più utile per mettersi alla prova, perché la relazione con il pubblico in sala è molto più istintiva e immediata. Boyle, anima punk e cultura raffinata, l'ha capito leggendo gli autori classici e quelli più sperimentali, come Ionesco, che con la cantatrice Calva ha dato il via al teatro dell'assurdo. Se è assolutamente necessario che l'arte o il teatro servano a qualche cosa, dirò che dovrebbero servire a insegnare alla gente che ci sono attività che non servono a niente e che è indispensabile che ce ne siano. Il teatro per Danny Boyle rappresenta il modo più facile e accessibile per cominciare a fare arte. Dopo qualche sporadico esperimento a scuola, si unisce alla Joint Stock Company per poi diventare direttore artistico del Theatre Upstairs. Nel 1987, quando ha 31 anni, viene ingaggiato dalla TV dell'Irlanda del Nord per dirigere uno sceneggiato. È il primo di una serie di esperienze televisive che, pur non consacrandolo come grande regista, gli danno le prime soddisfazioni, un minimo di visibilità nell'ambiente e soprattutto la possibilità di mantenersi soltanto con la regia. Di certo il titolo più famoso è Mr. Rose Virgins, prodotto dalla BBC nel 1993. Una serie drammatica in costume ambientata negli anni 20 dell'Ottocento nel Lancashire. Come fosse la beffa di un destino che dopo molti anni gli ripropone il significato dell'essere sacerdote, la serie racconta di un prete brillante e carismatico, Jonathan Pryce, che recluta 7 giovani ragazze per sistemare la sua chiesa e la sua casa. Il potente mix di sesso, scandali e religione, girato magistralmente, è un successo per il grande pubblico e il nome di Boyle comincia a risuonare. Fare televisione non è più facile o più difficile del teatro, è semplicemente un'altra cosa. Hai la possibilità di rifare le scene, ma va tutto così in fretta che è sempre meglio quando è buona la prima. Ho imparato a gestire un cast molto numeroso ed a appianare le divergenze, a prendere decisioni all'ultimo minuto. È stata un'esperienza fondamentale per la mia carriera. Sull'onda del successo di Mr. Rose Virgins, Danny Boyle riceve diverse offerte di lavoro. Può perfino permettersi di scegliere quello che gli piace. Non è più costretto a dire di sì a qualsiasi cosa per riuscire a sbarcare il lunario. Il produttore Andrew MacDonald e lo sceneggiatore John Hodge cercano un regista per il film che hanno in mente. Il titolo originale è Shallow Grave, ma in Italia verrà tradotto come Piccoli omicidi tra amici. Si tratta di una black comedy tratta dall'omonimo romanzo di John Hodge, nella quale 3 amici devono fare i conti con un cadavere che si ritrovano in casa insieme a una valigia piena di soldi. Eccitato dal progetto, Boyle dice di sì al suo primo film da regista. Sogna questo momento, fin da quando era soltanto un ragazzo di provincia e un amico gli aveva fatto vedere Apocalypse Now. Sono molti i film che mi hanno spinto a fare il regista, molti gli attori che mi hanno fatto sognare. Ma quello per me più importante è Apocalypse Now. Quel film mi ha impressionato a tal punto da svuotarmi il cervello. Mi ha cambiato la vita per sempre. Pensavo e ripensavo a come doveva sentirsi Coppola dopo aver girato questo capolavoro. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo all'inizio degli anni 90 e Danny Boyle, giovane regista originario di Manchester, sta per fare il grande salto nel mondo del cinema. Di famiglia irlandese, operaia e cattolica praticante, è arrivato all'età di 14 anni con la sicurezza di voler diventare prete. Poi si è accorto che quella che doveva essere vocazione era in realtà costrizione da parte dei suoi genitori e ha mollato tutto, rinunciando ad entrare in seminario. Appassionato di football e di cinema, ribelle e punk alla fine degli anni 70, ha scoperto il teatro a scuola come mezzo più accessibile per avvicinarsi alla regia. Ha seguito diverse produzioni da professionista e grazie ai primi lavori è diventato indipendente dal punto di vista economico. Ti accorgi che puoi farcela quando il lavoro che vorresti fare non è più solo una passione, ma ti permette di pagare le bollette. Per me è successo con la televisione. Ed è per questo che, a differenza di altri colleghi che diventati famosi l'hanno rinnegata, io mi sono sempre considerato debitore nei suoi confronti. E ancora adesso, se mi propongono un lavoro della TV, valuto il suo valore. Non dico subito no semplicemente perché è in TV. Non ho questo snobismo. Dopo aver diretto la serie di grande successo Mr. Rose Virgins, a Danny Boyle vengono offerte alcune regie. Il produttore Andrew MacDonald e lo sceneggiatore John Hodge lo vogliono per Piccoli omicidi tra amici, una commedia dal sapore black a cui dice immediatamente di sì. La trama, che sembra scritta apposta per lui, è un mix di thriller, umorismo macabro e cinismo che confina con il torbido. Ambientato in una grigia Edimburgo, racconta la storia di tre amici che condividono un appartamento e si ritrovano a gestire un cadavere e una valigia piena di soldi. Se due degli attori sono già stati trovati, Christopher Eccleston e Kerry Fox, manca il protagonista. Al casting Danny Boyle è più attento che mai. Si tratta del suo primo film e non può giocarsi tutto per colpa di un personaggio sbagliato. Le selezioni durano giorni, durante i quali si presentano i candidati più improbabili. Ma Boyle ha ben chiaro quello che sta cercando. Qualcuno che abbia la faccia da bravo ragazzo, ma che possa nascondere dei lati oscuri. Un bravo attore, versatile, ma non famoso, perché non c'è il budget necessario. Uno scozzese, non particolarmente bello, ma abbastanza fascinoso da piacere alle ragazze. Tutto questo ha un nome solo. Ewan McGregor. Rendete la fiducia, per esempio, o l'amicizia. Sono queste le cose importanti della vita, le cose che contano, che ti fanno andare avanti. Se uno non si può fidare degli amici, allora cosa rimane? Cosa? Questa potrebbe essere una qualunque città. Sono tutte uguali. Il background familiare di Danny Boyle e quello di Ewan McGregor non potrebbero essere più diversi. Se il primo, figlio di immigrati della working class, è cresciuto nelle difficoltà economiche e senza stimoli culturali, il secondo viene da una delle più grandi dinastie di Scozia, i Gregor. Rob Roy McGregor è l'eroe del popolo scozzese che nel Settecento rubava ai ricchi per dare ai poveri, immortalato dalla leggenda e da numerosi film a lui dedicati. John McGregor, suonatore di cornamusa, ha combattuto ed è morto con Davy Crockett e Jim Bowie ad Alamo. Un altro John ha introdotto la canoa in Gran Bretagna. C'è Jimmy McGregor, star della TV, e Ian McGregor, collaboratore di Margaret Thatcher a metà degli anni Ottanta. Inutile dire che anche Ewan McGregor ha dovuto indossare il kilt di famiglia, com'è di tradizione in ogni stirpe antica. Io vengo da quelle tradizionali famiglie scozzesi che si vedono nei film. Da piccolo mi facevano vedere i quadri con i nostri antenati e mi raccontavano le storie che li riguardavano. Ho sempre trovato molto affascinante tutto questo. Nonostante i moltissimi antenati celebri, possiamo senza dubbio dire che il clan Gregor deve gran parte della sua fama a uno dei suoi ultimi discendenti, l'attore Ewan McGregor. 31 marzo 1971, Crieff, campagna vicino a Perth, poche miglia a nord di Edimburgo. Fa molto freddo e il vento sposta le persone che, camminando per strada, devono attaccarsi a quello che trovano per reggersi in piedi. Carol Diane Lawson, un'insegnante, dà alla luce il piccolo Ewan e poi, mentre si riposa, lo affida alle cure amorevoli di suo marito, James Charles Stewart McGregor, anche lui insegnante. Hanno già un altro bambino, Colin, futuro pilota d'aereo, che sbirce il suo fratellino dal vetro della nursery, forse preoccupato che mamma e papà gli dedichino ancora le stesse attenzioni. Per molto tempo James, sportivo e insegnante di educazione civica, è il direttore del Crieff Highland Games, un evento molto importante che si tiene in Scozia ogni anno a partire dal 1870. Ewan e Colin, eccitati dall'atmosfera festosa, vanno sempre ad aiutare. Godono di un'educazione libera e culturalmente stimolante, crescono in mezzo ai libri, visitano i musei e hanno la possibilità di frequentare gli amici ogni volta che lo desiderano. Ho avuto un'infanzia e un'adolescenza molto felici. Andavo d'accordo con mio fratello e i nostri genitori non ci hanno mai fatto mancare nulla. Gli devo moltissimo come figlio. E grazie a loro se sono quello che sono, se ho raggiunto una serenità emotiva. Ewan è un ragazzo molto attivo. Ha ereditato da suo padre la propensione allo sport, pratica nuoto e fa il sub. Gli piace anche la musica e impara a suonare la batteria mentre riesce a conciliare un'altra sua passione, la lettura, con un lavoretto nella libreria della città. A scuola non recita negli spettacoli che vengono organizzati, ma si esibisce come cantante sia da solo che nel coro e scrive poesie per la rivista scolastica. Durante le feste con amici e parenti si diverte a imitare Elvis. Atteggiamenti, movimento del bacino, costume e modo di cantare innescano ogni volta grandi risate. L'influenza di Colin, ragazzo d'oro e studente eccellente, su suo fratello si fa sentire. Anche se Ewan diventa un grande fan di James Stewart, il suo primo grande mito va ricercato in casa. Si tratta dello zio Dennis Lawson, attore apparso in vari film e nel primo episodio di Star Wars nei panni del pilota Wedge Antilles. Mio zio non era così famoso, ma io ero un suo grandissimo fan. Volevo essere in tutto e per tutto come lui. L'adolescenza può essere un periodo molto difficile, anche per chi non ha problemi reali. Ewan, quando ha 16 anni, incomincia a sentirsi inappropriato perché, per quanto bravo, non riesce a raggiungere la perfezione di suo fratello, che tutti in famiglia decantano. Si sente diverso, perché ama l'arte e la musica. Mentre Colin è un campione di cricket e rugby. Quando sua madre si accorge che è infelice, decide di parlargli. Non c'è per lei un figlio migliore di un altro e nella vita dovrà fare tutto ciò che lo porterà ad essere felice. Lentamente Ewan si riprende dal vortice di depressione in cui è finito, si rimbocca le maniche e cerca la sua strada. Ispirato dallo zio, decide che vuole anche lui provare a recitare. Per un anno si trasferisce a Crickledy, dove frequenta il Five College of Further and Higher Education. Poi entra nel Perth Repertory Theatre, che gli serve per farsi le ossa prima del grande salto. Nel 1989 va a Londra e per 3 anni studia alla prestigiosa Guildhall School of Music and Drama. Stare a Londra è stato grandioso, è una città che ho amato fin dal primo momento. Dividevo l'appartamento con altri ragazzi, eravamo tutti giovani e pieni di speranze. Ci mantenevamo facendo lavoretti. Io mi vergognavo a dire che i miei genitori mi aiutavano mandandomi dei soldi. Mi sembrava ingiusto avere il loro aiuto, ma mi faceva molto piacere avere il loro appoggio. Provino dopo provino, Ewan McGregor, tratti scozzesi, bella voce e carisma, riesce a ritagliarsi un piccolo spazio all'interno di alcune serie TV inglesi. Niente di memorabile, qualche particina qua e là, ma quanto basta per poter dire a chi glielo chiede di essere un attore. Arriva anche il cinema. Il debutto avviene nel 1993 con Le 5 vite di Hector, titolo originale Being Human. Ma nonostante il cast includa anche Robin Williams, il film si rivela un flop. Ewan torna a teatro, ma non per molto. Il destino, attraverso Danny Boyle, sta per regalargli l'occasione della sua vita. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1994 e Ewan McGregor ha appena debuttato al cinema con Le 5 vite di Hector, clamoroso flop. Discendente da un'antica stirpe scozzese che annovera antenati leggendari, McGregor ha scelto di studiare recitazione per seguire le orme di suo zio. Si è trasferito a Londra, dove vive ormai da 3 anni, saltando da un provino all'altro in cerca di fortuna. Riesce a lavorare con la televisione e il teatro, ma del grande schermo ancora non se ne parla. Finché un giorno si presenta a un casting. Il regista Danny Boyle, anche lui al suo debutto, sta cercando il protagonista perfetto per Piccoli omicidi tra amici. Me la dovevo giocare bene. Era la mia occasione per entrare nel mondo del cinema. Non avrei mai scelto un attore qualsiasi. Cercavo la faccia giusta. Quando ho visto Ewan, ho capito che era lui. Sereno in apparenza, nascondeva certo una grande complessità. Ci siamo messi a parlare, ma io ormai avevo già deciso. Diversissimi per estrazione, simili per esperienze, Danny Boyle e Ewan McGregor vengono entrambi dalla TV e dal teatro. Piccoli omicidi tra amici e il loro debutto. Alla prima sono seduti vicini, tesissimi, perché sanno che dall'esito di questa pellicola può dipendere molto del loro futuro. Tra citazioni alte e pulsioni basse, umorismo al vetriolo e gusto macabro, la pellicola, anche se non diventa un grande successo, attira l'attenzione per la sua originalità. Boyle può tirare un sospiro di sollievo. Il mondo del cinema, che non è mai generoso, ha deciso di accettarlo tra i suoi. Forte dell'esperienza e convinto del suo talento dietro la macchina da presa, decide di riprovarci 2 anni dopo, giusto il tempo di trovare i finanziamenti e la storia giusta. È Trainspotting, da un romanzo di Irvin Welsh. Mark Renton e i suoi amici disprezzano la normalità e vivono alla giornata, in una Edimburgo grigia e squallida, tra eroina, furti e ogni tanto un po' di galera per qualcuno. Poi un giorno Renton decide di uscirne. Avevo già deciso che avrei voluto ancora con me Ewan. Era stato perfetto, la figura giusta per raccontare una storia come ce l'ho in testa. Ecco perché quando ho finito di leggere il libro di Welsh, l'ho appoggiato sul comodino e ho preso in mano il telefono per chiamare Ewan. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di 3 pezzi a rate e ricopritela con una stoffa del cazzo. Scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoia in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita. Trainspotting, ovvero guardare i treni passare, limitarsi ad assistere all'esistenza senza mai scegliere nulla. Crudo, underground, trash, psichedelico, non è semplicemente un film, ma l'origine di un'estetica. Ewan McGregor, nel film tossico, magrissimo e rasato a zero, ha dichiarato e continua a dichiarare che è il lavoro a cui è più legato. Per girare le scene più dure, come quelle in cui i personaggi si iniettano in vena eroina, Danny Boyle ha fatto prendere ai suoi attori vere e proprie lezioni di comportamento e di postura da ex eroinomani. Una nomination agli Oscar del 97 come migliore sceneggiatura non originale, l'inserimento al 10° posto della lista dei 100 migliori film britannici del XX secolo. Trainspotting è la consacrazione di Danny Boyle come regista cult e di Ewan McGregor come uno degli attori più bravi della sua generazione. Tutto è cominciato con Danny. Lui è un genio e gli devo tutto. Boyle vola ad Hollywood, gira un episodio di Alien, ma per una vita esagerata vuole ancora una volta a fianco di Cameron Diaz, Ewan McGregor. È proprio lui a proporgli, dopo aver letto il romanzo di Alex Garland, di portare sul grande schermo The Beach. Boyle si fida e gli promette il ruolo da protagonista. La produzione però, senza consultarlo, sceglie DiCaprio. Scoppia un caso alimentato dai media e si rompe per sempre il legame tra un inconsapevole Boyle e un delusissimo McGregor, che non risparmia critiche al vetriolo con tutti i giornalisti. Da Danny non me lo sarei mai aspettato. Da chiunque altro sì, ma non da lui. Tra noi si è rotto qualcosa da quel momento. Mentre Boyle, dopo Trainspotting, conosce qualche fiasco per poi risollevarsi con gli Oscar di Millionaire e il successo di 127 ore, la carriera di McGregor è in vorticosa ascesa. Canta in Velvet Goldmine, interpreta Obi-Wan Kenobi nella saga di Star Wars, è protagonista di Big Fish di Tim Burton, alterna grandi musical come Moulin Rouge a commedie come Abbasso l'amore. È eclettico, sorprendentemente perfetto in ogni ruolo. Questo Danny Boyle lo sa. Deve solo aspettare il film giusto per dirglielo. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.